Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1865, il re a Firenze, la capitale è Toscana. Il re è partito da Torino alle 8 del 3 febbraio, come recita il comunicato ufficiale. Alla sera dello stesso giorno faceva il suo ingresso in Firenze, accompagnato dal presidente del Consiglio dei Ministri, La Marmora. L'addio di Vittorio Emanuele II alla sua città natale è avvenuto alla Chetichella. Solo 4 giorni prima, il 30 gennaio, l'ultimo grande ballo a corte era stata l'occasione per una feroce contestazione in piazza. I torinesi si sentono traditi dal loro primo concittadino e continuano a protestare. Ma con il trasferimento del re il fatto è ormai compiuto. Firenze è divenuta capitale del regno al posto di Torino, così come previsto dall'accordo tra Francia e Italia. La città toscana è in fermento, anche se non si può dire che i fiorentini festeggino. Qualcuno ha scritto che se i piemontesi aborriscono questo trasferimento, i toscani non lo desiderano. Ma si tratta pur sempre di un evento, per di più questo 1865 coincide con i 600 anni dalla nascita di Dante Alighieri e le celebrazioni per il poeta sono un'occasione per rafforzare lo spirito nazionale. Firenze sta preparandosi a cambiare. I progetti di ristrutturazione sono già nei cassetti del comune e dei ministeri. Si pensa che l'intero esecutivo si sposterà sotto il cupolone a breve, al massimo prima dell'estate. Il re ha preso dimora a Palazzo Pitti, la Camera sarà a Palazzo Vecchio insieme al Ministero degli Esteri, agli Uffizi il Senato, il Casino della Livia in Piazza San Marco ospiterà le finanze, il Convento di Santa Maria Novella i lavori pubblici e la Cassazione, quello di San Firenze l'istruzione, Palazzo Galli Tassi in via dei Pandolfini, fini l'agricoltura, Palazzo De Cepparello, in via del Corso, il Ministero di Grazia e Giustizia. Non è finita qua. Il Convento dei Padri delle Missioni, in piazza Frescobaldi, ospiterà il Ministero della Marina, l'antica Gendarmeria in San Marco, il Dicastero della Guerra, mentre la Corte dei Conti prenderà casa nel Palazzo Crocetti in via Capponi e la Tesoreria di Stato sarà all'Abbadia. Il Comune ha in mente anche un piano di ampliamento che comporta l'abbattimento delle mura. Il sindaco Cambredini ha promesso che al loro posto, proprio come a Parigi, sorgeranno dei grandi boulevard. Intanto nei caffè della nuova capitale, il Dune, chiamato delle colonne, il Caffè d'Italia, il Caffè Landini o di Flore, il Caffè Vital al Mercato Nuovo, il Caffè Ferruccio, il Caffè delle Alpi in Piazza Santa Maria Maggiore e il nuovo Caffè Giacosa davanti a Palazzo Strozzi, risuonano le voci di tanti nuovi venuti. Politici, certo, alti funzionari, ma anche tanti, tanti affaristi, italiani e stranieri. Come le api sul miele. Paolo Piacenza, al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.